Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovate e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, che questa settimana finalmente si è lasciato alle spalle un mese di maggio per metà dedicato all'anniversario del 68, un cinquantennale importante quanto molto impegnativo che abbiamo ricordato con piacere, ma che forse è il caso che ci lasciamo andare. Per chi voglia riapprofondire le tematiche che abbiamo affrontato, naturalmente i riferimenti sono sempre quelli: www.radiovallun.info. Apriamo quest'ultimo mese di programmazione con un altro anniversario di cui non possiamo non parlare. Nel maggio del 1978 veniva approvata la legge 190, meglio conosciuta come la legge Basaglia, che chiudeva o cercava di chiudere, una delle istituzioni totali per eccellenza, il manicomio. Il manicomio, l'ospedale psichiatrico come viene chiamato per dare un linguaggio tecnico e oggettivizzante, resta un luogo di dolore, emarginazione, se non, purtroppo molto frequentemente, abusi. Alla base dell'apertura dei manicomi, alla fine del XIX secolo, c'è la preoccupazione di portare ai margini dello Stato borghese le brutture dell'ordine sociale, mendicanti, poveri, asociali, vagabondi che con i loro comportamenti avrebbero destabilizzato la società. La gestione della devianza diventa quindi uno dei capisaldi del nuovo Stato unitario. Per dirla, come la disse Basaglia per l'appunto, al diseredato era stato negato il diritto di essere uomo, accomunando nello stesso destino colpa, malattia e ogni devianza della norma. Questo avveniva almeno fino al 1978, fino a quando dalla follia di alcuni uomini e donne si crea il progetto di poter trasformare questo luogo di sofferenza in un luogo di speranza, o quantomeno di meno sofferenza. Quella di Basaglia viene chiamata rivoluzione, non a caso, come quella francese, e quell'altra vicinissima, anche qui forse non a caso, dei ragazzi e delle ragazze del 68. Ma noi oggi non vogliamo parlare della legge Basaglia, di questa storia straordinaria, ma vogliamo fare un passo indietro e parlare di chi forse ha subito più di altri l'orrore del manicomio, cioè le donne. La costruzione sociale femminile sembra sempre essere stata incardinata su due binari. Il primo è il giudizio, elaborato sul senso comune, e il secondo è la scienza psichiatrica, che attraverso la follia inizia a tratteggiare il corpo delle donne, raccontandolo nei sintomi che lo portavano ad uscire fuori dalla norma. La donna quindi diventa un essere quasi animalesco, imbrigliato in comportamenti bizzarri che trasgrediscono le regole del vivere civile. Il tutto in un corpo e in una mente deboli e instabili, creati dal buon Dio o chi per lui, per svolgere prevalentemente il solo ruolo che le si addice, ovvero la maternità. Chi fa il contrario, appunto, chi trasgredisce questa regola, è contro natura, quindi è pazza. Noi non potevamo non cominciare questa piccola carrellata di canzoni sul manicomio con la canzone per eccellenza. È del 1972, la conosciamo tutti, ed è Un matto di De André. Preso dall'album No al denaro, no all'amore, no al cielo. Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij, malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia. Parlando naturalmente, come stavamo facendo, del ruolo delle donne all'interno della società, di come questa figura potesse e può per certi versi essere etichettata, non possiamo che tenere in considerazione una peculiarità tutta italiana. Stiamo parlando naturalmente del regime fascista. Il regime fascista spinge al limite il ruolo della donna come madre della patria. Per Julius Evola, uno dei principali teorici del fascismo, quello che purtroppo è rimasto come eredità più ingombrante anche nel secondo dopoguerra, l'uomo rappresenta la forza e la ragione, rappresenta il potere. La donna rappresenta il principio della debolezza, dell'inferiorità e dunque della necessaria sottomissione. Naturalmente, se il fascismo spinge alle estreme conseguenze questo concetto, questa differenza di genere, allo stesso tempo si pone in continuità con l'Italia liberale. Dato assodato per questa cultura politica italiana era che uomini e donne fossero diversi, ma il fascismo ha fatto ancora di più, ha politicizzato questa differenza a vantaggio dei maschi e l'ha sviluppata in un sistema particolarmente repressivo volto a definire il ruolo della donna come cittadina, a controllarne la sessualità e la sua partecipazione sociale. Solo per fare un esempio, lo Stato, proclamandosi unico arbitro della salute pubblica, pone la donna in una condizione di non decisione rispetto al proprio corpo. Anzi, la donna viene considerata nemica dello Stato qualora decida di non avere figli o di limitare la procreazione. In questa maniera, il regime mette in campo la proibizione dell'aborto, degli anticoncezionali e di ogni forma di educazione sessuale. E ciò avviene attraverso l'esteso apparato di controllo politico e sociale. All'epoca, infatti, bastava non voler figli per essere additata come pazza, isterica e quindi nemica della patria. Le donne rinchiuse in manicomio hanno anche questa colpa, quella di voler decidere sui loro corpi. Per parlare proprio di questo argomento, cioè del manicomio, del regime fascista e di come il regime ha politicizzato il corpo delle donne, abbiamo con noi in studio Anna Carla Valeriano, storica dell'Università di Teramo, che ha da poco pubblicato il libro Malacarne, donne in manicomio nell'Italia fascista, edito da Donzelli nel 2017. Stiamo per farci una chiacchierata con lei, ma ne vogliamo parlare oltre che del libro anche della mostra di cui è curatrice. La mostra si chiama I fiori del male, donne in manicomio nel regime fascista, dove il manicomio è quello di Sant'Antonio Abate di Teramo, che diventa nella mostra sì microcosmo in quanto istituzione totale, ma anche forse paradigma degli ospedali psichiatrici italiani. Grazie Anna Carla Valeriano, grazie per essere qui con noi in questo sabato pomeriggio. Ci fa molto piacere che tu sia qui, perché così possiamo davvero vedere, sentire dal vivo la tua voce, la voce della curatrice della mostra che abbiamo annunciato. Io partirei subito con una domanda a bruciapelo. Noi nell'introduzione abbiamo fatto appunto questa breve excursus sul ruolo della donna nel regime fascista. Però io ti chiedo, rispetto alla mostra che parla proprio delle donne rinchiuse in manicomio nel regime, durante il regime fascista, da dove nasce la volontà e il desiderio di raccontare storie che sono di marginalità e di reclusione? Allora, la voglia di raccontare queste storie di vita dimenticate nasce da un mio lavoro di ricerca che è iniziato nel 2009. Nel 2009 io mi sono immersa letteralmente in questo archivio storico dell'ex manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo, un archivio molto ricco, raccoglie oltre 22.000 cartelle cliniche che sono state prodotte dall'istituzione tra il 1881 e il 1998, l'anno poi della chiusura definitiva. E appunto io sono riuscita a vedere circa 7.000 cartelle cliniche di uomini e donne, solo di donne ne ho viste 3.000. E dalla scoperta di questo straordinario materiale documentario io ho deciso di provare a raccontare delle storie che di fatto erano state annullate dall'istituzione manicomiale, per cui mi sono anche resa conto che esistevano dei percorsi di internamento e di esclusione tutti al femminile, ed era allora giusto approfondire l'esclusione al femminile e cercare di raccontarla nella maniera più ricca possibile, quindi avvalendosi non soltanto delle cartelle cliniche e dei diari clinici, ma anche delle fotografie, delle lettere, delle ricoverate che ho trovato in cartella clinica e di tutto il materiale documentario a supporto che potesse aiutare a far emergere queste storie. E in particolare quali sono queste, cioè che cosa emerge? Noi ecco che siamo dei profani rispetto ai manicomi, rispetto a questo mondo, a questa istituzione totale, no? Come la chiamava Foucault. Che cosa emerge? Chi sono queste donne? Perché è importante raccontare queste storie? Beh, emerge sicuramente il fatto che storicamente il manicomio è stato un deposito di devianza sociale, di marginalità. Quindi in manicomio sono stati confinati tutti quegli elementi scomodi, percepiti come scomodi della società. E cosa voleva dire essere un elemento scomodo? Voleva dire comunque avere degli atteggiamenti, delle condotte, uno stile di vita eccentrico rispetto alla norma. Quindi tutte quelle identità, in questo caso stiamo parlando di identità femminili, che confliggevano con la norma sociale, che uscivano fuori dai tracciati morali, che infrangevano gli equilibri familiari, hanno trovato nel manicomio un luogo in cui annullarsi e in cui appunto le famiglie, ma anche la società, inviavano queste donne percepite come devianti per normalizzarsi, quindi per essere normalizzate. Per cui noi in manicomio troviamo tante figure della marginalità, andiamo dalle madri contro natura, cioè quelle donne che a un certo punto rifiutano un ruolo materno, che vivono in modo costrittivo, alle ragazze ribelli fuori dei ruoli che si ribellano al codice patriarcale, all'autorità familiare, ma troviamo anche le cosiddette isteriche, che sono queste donne che attraverso questi corpi scomposti esprimono un disagio molto più profondo, così come troviamo anche le donne vittime della guerra, cioè sono donne che hanno subito traumi profondi, dolori profondi legati all'evento bellico sia nella prima che nella seconda guerra mondiale e non sono riusciti a superare questo trauma, questo dramma, e hanno manifestato quindi disagi mentali. Ecco, rispetto alle donne in particolare, qual è la differenza, perché sinceramente penso che ci sia una differenza tra lo stato liberale e come si comportava con le donne nei manicomi e lo stato fascista, qual è? C'è una peculiarità del fascismo rispetto all'istituzione manicomio e donna? Sì, allora sicuramente anche nello stato liberale le donne hanno pagato, diciamo, a caro prezzo i loro desideri di autonomia, e quindi anche durante gli anni dell'Italia liberale i manicomi funzionano come meccanismi di esclusione e di emarginazione sociale. Però c'è uno scarto poi negli anni del fascismo, vale a dire che durante gli anni del regime le identità femminili vengono investite di un ruolo politico nuovo rispetto agli anni precedenti, cioè mentre negli anni precedenti le donne sono chiamate ad assolvere ruoli fondamentali all'interno delle famiglie, quindi ad essere brave madri e brave mogli, rispondendo di queste condotte morali alle loro famiglie, durante gli anni del regime fascista il corpo della donna diventa un corpo politico, vale a dire che sulla donna il regime costruisce un intero progetto politico. Allora, la donna può essere utile alla nazione, può proiettarsi all'interno della cosiddetta rivoluzione fascista mettendo il proprio corpo a servizio dello Stato, quindi facendo figli per la patria e continuando ad assolvere, come era stato negli anni dell'Italia liberale, ai ruoli tradizionali, però appunto diciamo mettendo a disposizione questa etica del sacrificio anche nell'interesse della collettività della nazione. E quindi capite bene che in quegli anni i manicomi si affollano anche di donne che si sono rifiutate di incardinarsi negli stereotipi della propaganda fascista e che con le loro condotte dissennate, tra virgolette degenerate, con i loro istinti anomali che ovviamente non si allineano al modello esemplare della sposa e madre veicolato dal regime, ecco, con questi modi di essere si sono fatte notare e per cui sono state emarginate e medicalizzate in manicomio. E Anna Carla, volevo chiederti una cosa. Innanzitutto, vabbè, volevo chiederti un po' a livello tecnico, ecco, come hai fatto ad entrare in relazione con queste fonti, che sono fonti anche che, dicevi, riguardano delle cartelle cliniche, quindi normalmente sono dati che sono di difficile accesso, diciamo. Quindi ecco come ti sei raffrontato su questa cosa. E poi dopo volevo farti un'altra domanda, visto che si tratta anche di una mostra. Come hai poi costruito il percorso su queste storie, anche poi che riguardano, così come ricollegandomi a quanto dicevo prima, quei cosiddetti dati sensibili delle persone? Sì, allora, fino a qualche anno fa effettivamente gli archivi sanitari, quindi stiamo parlando di cartelle cliniche di ex ospedali psichiatrici, erano archivi difficilmente accessibili. Poi da circa un decennio è intervenuto il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dei Beni Culturali non solo ha vincolato questi patrimoni archivistici, quindi li ha riconosciuti come patrimoni culturali a tutti gli effetti, ma ha avviato sugli archivi degli ex ospedali psichiatrici un lavoro di catalogazione e di valorizzazione, per cui li ha resi accessibili agli studiosi. Ora, è chiaro che, come dicevi tu, sono cartelle cliniche e quindi sono dati sensibilissimi, sono documenti che racchiudono dati sensibilissimi. C'è una legge, in effetti, sulla privacy che impone di poter consultare questi documenti trascorsi 70 anni, per cui io sono riuscita, in effetti, a consultare le cartelle cliniche fino all'incirca il 1950. E ho diciamo, rispettato pienamente i criteri di privacy anche delle stesse persone ricoverate. È stato poi comunque difficile approcciarsi con il documento in sé, perché la cartella clinica è un documento complesso, è un documento stratificato che racchiude differenti piani di interpretazione e soprattutto anche differenti piani di decriptazione, perché ci troviamo di fronte a documenti con scritture originali in corsivo, quindi c'è tutto un lavoro anche di decifrazione delle scritture e dei linguaggi con cui questi documenti poi sono stati scritti. Quindi parliamo di linguaggi tecnici specialistici della psichiatria ottocentesca, novecentesca, quindi diciamo è stato un lavoro complesso quello che io ho eseguito sui documenti e che poi ho cercato di tradurre nella mostra. Quindi all'interno della mostra questi documenti sono stati riproposti in un percorso il più possibile divulgativo, perché era necessario far conoscere a quante più persone possibile questa storia di vita. E quindi all'interno della mostra sono riportati i documenti in originale, quindi le persone che visitano la mostra hanno la possibilità di vedere fotoriprodotte le cartelle cliniche originali, quindi leggere anche questi documenti, però appunto il criterio utilizzato per allestire la mostra è stato quello della divulgazione. Quindi diciamo che accanto a ogni documento in originale c'è poi una spiegazione che aiuta il visitatore all'interno del percorso espositivo. Ti faccio l'ultimissima domanda. La mostra itinerante è stata a Teramo, no? Che dove è nata? A Roma, sì. E a Torino. Per caso arriverà anche a Bologna? Allora, la mostra è vero, itinerante, ha fatto molte tappe. Siamo alla 14ª tappa, insomma, di una mostra che è stata inaugurata nel 2016, quindi sta riscuotendo un buon successo di pubblico. La porteremo prossimamente a Termoli e a Rovereto. Nel mese di novembre. C'è la possibilità che arrivi anche a Bologna? Sì, mi piacerebbe poter dire di sì, nel senso che noi solitamente riusciamo a portare la mostra laddove ce la richiedono, quindi laddove ci sia sul territorio un'istituzione disposta a promuoverla. Non parliamo di costi altissimi, perché la mostra è una mostra molto leggera, quindi anche facilmente trasportabile, per cui solitamente noi riusciamo a portarla laddove vi sia la volontà di mente, di un'istituzione culturale, di un soggetto promotore che abbia poi voglia di divulgarla sul proprio territorio. Certo, guarda, noi speriamo vivamente che la mostra arrivi a Bologna, perché vogliamo vederla, siamo curiosissimi. Io avevo visto un po' di immagini e davvero importante cercare di far conoscere queste storie di marginalità che sembrano così lontane, però forse in realtà non sono poi così lontane dalla nostra realtà, anche se sono successe molto tempo fa, no Frey? Assolutamente, certo. Assolutamente. E poi nel frattempo, per chi non avesse la possibilità di visitare la mostra, può sempre fare riferimento al libro di Anna Carla Valeriano, Ma la carne, donne in manicomio nell'Italia fascista, edito da Donzelli nel 2017. Bellissima edizione, vale la pena di andare a pescare da questo libro per scoprire magari in maniera un po' più dettagliata alcune delle storie che poi sono raccontate anche nella mostra. Esatto, noi ringraziamo Anna Carla, grazie per la disponibilità. Io ringrazio voi. Ci risentiamo magari quando la mostra sarà a Bologna. Molto volentieri. Bene, ringraziamo ancora Anna Carla Valeriano, curatrice della mostra dedicata alle donne in manicomio nel regime fascista, che si chiama I fiori del male. E nonché autrice del libro Malacarne, dedicato alle donne in manicomio nell'Italia fascista, libro edito da Donzelli nel 2017, che vi consigliamo caldamente di andare a recuperare, perché a noi è piaciuto molto. Andiamo quindi con i saluti, non possiamo però che lasciarci con un piccolo appuntamento, un piccolo appuntamento a cui teniamo molto. Giovedì 7 giugno direi che ci vediamo direttamente alla presentazione di 108 metri di New Working Class Hero, il libro di Alberto Prunetti, uno scrittore che a noi sta simpaticissimo e ci piace molto. C'è la presentazione a Vaga 61 alle ore 20, quindi Vaga 61, via Paolo Fabbri 110, presentazione di Alberto Prunetti, 108 metri, una bella immersione nelle scritture industriali e nelle narrazioni della working class. Esatto, ci vediamo là sicuramente, un libro tutto da leggere e da ascoltare lui giovedì. E noi per oggi abbiamo finito. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre su Radio Città Fujiko, sempre con Balloon. Buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey e Olga. Ciao! I matti vanno contenti tra il campo e la ferrovia, caccia di grilli e serpenti, a caccia di grilli e serpenti. I matti vanno contenti a guinzaglio della pazzia, a caccia di grilli e serpenti tra il campo e la ferrovia. I matti non hanno più niente intorno a loro, più nessuna città, anche se strillano chi li sente, anche se strillano che fa. I matti vanno contenti sull'orlo della normalità, come stelle cadenti nel mare della tranquillità, trasportando grandi buste di plastica, il peso totale del cuore, piene di spazzature e di silenzi, piene di freddo e rumore. I matti non hanno il cuore, o se ce l'hanno è sprecato, è una caverna tutta nera. I matti ancora lì a pensare a un treno mai arrivato, e a una moglie portata via da chissà quale bufera. I matti senza la patente per camminare, i matti tutta la vita dentro la notte, chiusi a chiave. matti vanno contenti, fermano il traffico con la mano, poi attraversano il mattino con l'aiuto di un fiasco di vino. Si fermano lunghe ore a riposare le ossa e le ali, le ossa e le ali. E dentro alle chiese ci vanno a fumare. Centinaia di sigarette davanti all'altare,